Sulla strada umida rimane un sentimento, un'emozione nuova quasi uno sgomento. Una macchina lavide vestita di mistero, e il corpo tuo vicino quasi un desiderio. Sono momenti in cui ti senti riposato, non dico dal presente, ma tanto dal passato. Lo senti fresca in faccia, la voglia di costruire, la sana armonia di chi non si può fermare. E intanto tu mi ascolti, ora tu mi ascolti, intanto tu mi ascolti. Maledetta sia, dal tempo e dall'amore, la pallida tristezza e quel magico tremore, una sigaretta in bocca e un sorriso trasparente, in mezzo a questo mondo dove non funziona niente, ma l'importante è darsi, ancora e sempre da fare, e avere questo impegno, questa voglia di cambiare, le stelle si nascondono, adesso appare il sole, non oscuriamolo con fiumi di parole, e intanto tu mi ascolti, ancora tu mi ascolti. Nuove teorie e certezze del domani, perdetevi nel tempo, cataclismi sovrumani. Perfetti sillabari, permuti artificiali, andatevi a nascondere sacri dogmi sociali. La vita si costruisce da soli e senza gloria, non contano i racconti e le favole della storia. E quel che può importare in questa situazione è semmai l'impegno e la decisione. Le pietre si raccolgono, in molti questo è giusto, ma camminarvi sopra si è soli in un momento. E intanto tu mi ascolti, ancora tu mi ascolti, intanto.